Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Margherita, sono io. L'ho presa, sai? Sì. Sì, in questo momento. No, Avorio non c'era. L'ho presa a Grigio Alba. No, la targa. Ce l'ho qui davanti a me. Sì, ma forse è meglio, sai? Eh sì, perché tiene di più lo sporco. Ho firmato cambiali per 25 minuti, c'ho ancora il braccio che mi fa male. Ma certo che ce la facciamo, perché non ce la dovremmo fare? Abbiamo sempre pagato tutto. Ma dai, Margherita, perché ci dovremmo pentire, scusa? Non esageriamo, la macchina ormai non è mica più un lusso, è una necessità per tutti. No, i bambini non li mandare a letto. Venite tutti alla finestra, così quando arrivo suono e la vedete. Cosa? Sì, la Mercedes. Via Marcellino che è la Mercedes. No, tranquilli, non voglio in nessuna maniera demonizzare quello che è l'elemento portante della nostra economia. No, non voglio parlare male degli automobili, degli automobilisti. Voglio semplicemente oggi suggellare un rapporto d'amore, quello fra l'italiano e l'automobile. Questo era un film con Tognazzi degli anni 60 che già dimostrava che in realtà al culmine di ogni aspettativa, di ogni desiderio, di ogni gratificazione sociale e personale c'era l'acquisto allora della 600. Tognazzi acquista la 600, color tortora, andava molto in quegli anni, il color cacarellina sciolta, e va a casa con questa automobile felice e contento. La famigliola si affaccia al balcone, felice finalmente hanno raggiunto con molte cambiali quello che era il sogno della loro massima aspirazione sociale. Lui va a fare un giretto e ci va naturalmente a puttane, perché naturalmente in quegli anni l'alcova principale, il luogo della trasgressione, dell'uscita alla regola, era l'automobile con i sedili ribaltabili, che se non erano ribaltabili in natura si facevano aggiustare da un meccanico con la modica somma di 2 o 3 mila lire, si trasformava in un'alcova viaggiante l'automobile. Perché dico questo? Perché l'automobile oggi comunque è al centro dell'attenzione, ma non tanto in quanto oggetto demonizzabile, in quanto come possibilità comunque di articolare diversamente la propria tabella di marcia quotidiana. Ogni mattina, ogni sera guardiamo le notizie per capire se oggi ci sarà il traffico limitato, il traffico interrotto, abbiamo un Euro 5 pensando che avevamo qualcosa che ci avrebbe permesso di sfidare le dimensioni interstellari. In realtà oggi l'Euro 5 ce la possiamo tenere, ci vuole l'Euro 6, quindi bisogna ricambiare nuovamente automobile e poter circolare tranquillamente. Il sogno di uscire dalle limitazioni, ma perché questo ci crea dei problemi? Perché oggi l'automobile è in maniera indissolubile legata alle nostre abitudini quotidiane. Immaginate quanto tempo noi passiamo in automobile. La parte più consistente del pubblico che mi ascolta dall'automobile. Quindi ho un rapporto con decine di migliaia di persone che mi ascoltano mentre sono seduti in un'automobile, hanno le mani su uno sterzo o variabilmente su una leva del cambio o variabilmente nelle narici del loro naso, ma mi ascoltano seduti in un'automobile. Voi quanto tempo passate in automobile? Mediamente, immaginate, se la usate per andare al lavoro ci passerete minimo 2 ore al giorno, anche per un piccolo cabotaggio, per una piccola necessaria transumanza quotidiana. Se poi la riprendete il pomeriggio per accompagnare i ragazzi in piscina o riprenderli da scuola o andare a fare qualche giretto, io penso che di media una persona che prende l'automobile tutti i giorni ci passerà 2 o 3 ore dentro l'automobile. Comunque poi pensate a quelli che hanno necessità di spostamenti più lunghi. E come organizzate il vostro tempo dentro l'automobile? Perché il tempo quotidiano nell'attraversare le città è un tempo abbastanza nevrotico che viene stemperato e ammorbidito dall'ascolto della radio, viva Dio, è il nostro pane e ne siamo felici, dall'osservazione del mondo circostanze per poter mandare a quel paese le persone che ci ostacolano, ci attraversano la strada, ci infastidiscono, e poi dal momento fatidico della ricerca disperata di un parcheggio. Trovare un parcheggio in una città significa perdere almeno 20 minuti, a meno che uno non voglia investire parte del suo budget in un garage, sennò altrimenti bisogna girare, rigirare nelle zone chiave finché non vedi finalmente uno che mette la retromarcia, si accendono i fanalini, quindi l'inchiodata, fermo, tutti ti suonano dietro e via dicendo. Questa è la parte stressante. Qual è la parte bella? Qual è la poesia? Qual è il vantaggio di stare dentro un'automobile? Si sta rinchiuso in una propria personale bolla di vita isolata dal mondo, in cui sentiamo la nostra musica, ascoltiamo i profumi della nostra vita, l'odore bagnaticcio del pelo del cane se abbiamo un cane, l'odore del tappetino sporco, oppure il deodorante, l'arbre magique, insomma, descrivetemi il meraviglioso ambiente della vostra automobile, luogo eletto della vostra fuga quotidiana. 800 24 00 24. A tra... Melog, cronache meridiane. Quanto fa questo? 250. E dove li fa? E dove vuole che li faccia? Su strada, no? Ma se non ci stanno le strade? Perché? L'autostrada del sole cos'è? Un viottolo? Ma che autostrada? Qua a momenti non abbiamo nemmeno il sole. E poi in città il motore si sfotte. E chi lo dice? Guardi, il carburatore è a doppio corpo. Il che significa che può marciare anche a regime minimo. La Maserati è una macchina da corsa, ma in città è un calesse. 800 24 00 24. Oggi descriviamo il nostro rapporto d'amore con l'habitat della nostra automobile. Piccina o superba che ella sia, è il luogo in cui passiamo gran parte del nostro tempo. Il nostro tempo familiare, il nostro tempo della meditazione, il nostro tempo solitario. Quando siamo in automobile siamo soli con i nostri pensieri. Mai come quando siamo in automobile ci passano davanti dei flash della nostra vita, riflettiamo. Io mi accorgo delle volte che parlo ad alta voce in macchina. Le persone con cui non riesco ad essere aggressivo durante il giorno, perché non posso, perché non sta bene, perché sono colleghi, perché sono parenti, perché sono persone affettuose con me, via dicendo, le insulto ad alta voce quando sono in automobile. Voi dite sei pazzo, è patologico. Ma mi guardo intorno, lo fanno un po' tutti. Non capisco bene se stanno parlando con il viva voce del loro telefonino o stanno anche loro smadonnando contro qualcuno che in quel momento probabilmente è il principe dei loro pensieri. In automobile passiamo anche dei piacevoli momenti, quando portiamo qualcuno ci fa piacere accompagnare in macchina, avere vicino in macchina. È un luogo neutro, è il luogo del grande preludio, tutto può accadere dopo, oppure è il luogo del grande litigio. In automobile finiscono gli amori, in automobile si sanano le questioni tra persone che normalmente non possono parlare tra di loro così liberamente, magari, non so, in un ristorante, per strada, in un luogo pubblico. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Credo che la sua premessa sia azzeccatissima. Grazie. Perché proprio perché quando viaggio, io premetto, sono onesto, a me piace guidare. E comunque guidare rilassa, è molto rilassante, devo dire. Sì, certo, anche poi percorrendo delle strade che magari non sono granché trafficate, con un ottimo panorama ai lati da poter vedere, è il preludio proprio di tutti questi pensieri, dove uno si rilassa e può ricostruire, diciamo, la sua giornata. È vero, Roberto, è vero che è bello quando uno poi non ha grande fretta, che mai avere un posto di piace può anche fermarsi. Dice, ma che c'è un po'? Che lo farebbe mai insieme ad altre persone, però da solo lo fa. Si ferma e guarda una cosa così, totalmente gratuito. Mai nella vita si può fare altrimenti, se non dentro l'automobile. Esattamente, è proprio così, in effetti. Lei quanto ci passa di tempo in auto? Ma mediamente 2 o 3 ore tutte, perché comunque faccio molti chilometri di strada anche per lavoro, oltre che per spostare, diciamo, magari devo andare a portare la bambina in piscina che deve nuotare. Ecco, come impiega questo tempo? A parte l'attenzione alla guida, che mi rendo conto che è la cosa principale, ma visto che riusciamo ad essere multitask quando guidiamo, cosa fa? Telefona, ascolta la musica, si guarda intorno, si lascia prendere dai suoi pensieri. Qual è l'attività principale? Guardi, ascoltando della buona musica mi permetto anche di avere delle buone riflessioni, dei pensieri che possono essere positivi, perché magari hai avuto una giornata difficile. Magari possono essere anche dei pensieri che ti fanno pesare un po' la giornata che stai vivendo. E quindi, diciamo, è della categoria che prediligo, che è un po' quella a cui appartengo. Non usa l'automobile per telefonare, per molti è il luogo in cui si telefona, uno si siede in macchina e comincia a telefonare. Vedo gente che è impegnata in grandissime telefonate, ma sì, usa l'automobile per star soli con se stessi, perché in fondo è una delle poche occasioni che abbiamo in cui non ci possono rompere le scatole più di tanto. Grazie. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Io ho un rapporto di amore e odio con la macchina. Tanto l'ho desiderata da giovane, perché era un simbolo di libertà, eccetera, adesso per lavoro ci devo passare minimo 4-5 ore al giorno, perché faccio l'ispettore sulle strade provinciali. Ecco, allora consideriamo 5 ore al giorno in auto, diciamo, esatto, la parte preponderante del suo tempo utile, perché uno metta lavora 8 ore, tolte 3 ore per i pasti, per gli incontri, per le riunioni, lei sta quasi più in macchina da sveglio che in giro per strada a piedi. Esatto, poi devo recarmi al lavoro in macchina, perché tra l'altro sono in una posizione che non c'è il mezzo pubblico, per cui diventa una costrizione. Vabbè, comunque in questo momento oggi non mi interessa il perché, mi interessa per cosa accade dentro. Quindi lei è più interessato all'arredamento della sua macchina che all'arredamento del suo salotto, perché sta più tempo in macchina. Diventa un ufficio viaggiante la mia macchina. E come è organizzato? Come è organizzato il suo spazio? Allora, praticamente intanto assolutamente sempre con l'auricolare, perché mi capita anche chiamando per lavoro di passare l'uscita che devo fare e tirare dritto, perché per quanto ne dicano che il telefono ti porta via. Ma non, perché non metto in viva voce? Scusa, oggi le automobili di ultima generazione quello che ti chiedono, cioè le informazioni di lavoro ti portano con la testa da un'altra parte. E comunque ho il mio borsello dove tutto quello che mi può essere necessario, l'antinfiammatorio, la pastiglia per il mal di testa, se devo fermarmi per i sopralluoghi, berretti, guanti e quant'altro, praticamente diventa una seconda casa. Quindi anche la farmacia, diciamo, il suo armadietto. Esatto. Farmacia. Con tutti i presidi necessari per ogni tipo di urgenza, naturalmente. Sì, perché poi il mal di schiena, chi fa tante ore di macchina, il compagno, per cui l'antinfiammatorio ci deve essere sempre. Vabbè, possono essere anche delle pause più ludiche, ma non voglio entrare in questo particolare. Elia, buongiorno. Buongiorno. 800240024, anche donne, perché non vorrei soltanto fare la rassegna dei maschioni al volante. Mi piacerebbe sapere qual è la differenza, anzi, del tempo automobilistico delle signore. Elia. Sì, buongiorno. Buongiorno. Dunque, a parte che la presentazione che lei ha fatto di questa puntata è una cosa fantastica, nel senso che mi sono proprio rivisto praticamente esattamente in tutte queste cose, nel fatto di urlare come una bestia, nel fatto di passare un sacco di tempo nella macchina. Ecco, io faccio musicista, quindi per spostamenti vari, per il conservatorio, per le prove, per tutte queste cose. Lei è un musicista, quindi lei in macchina è anche il momento della creatività quando è in automobile. E paradossalmente sì, perché se mi viene in mente qualche cosa e non ho il modo di fermarmi per scrivere, ok. E come fa? Lo canticchia registra sul telefono, come fa? No, quello no, non l'ho ancora fatto, però mi sono cantato la cosa per magari un'ora, sono sceso dalla macchina appena arrivato, sono corso in casa e cantando mia moglie mi guarda come un deficiente e io mi scrivo la cosa, insomma. Per lei non può suonare mai in automobile, non c'è un sistema per suonare, no? No, purtroppo no. Anche una tastiera sullo sterzo, quindi... No, penso io sullo sterzo ho il comando, ad esempio, del volume, della sintonia dell'autoradio, una serie di cose. Lei non può metterci una tastierina per... No, non so, dico perché... Potrebbe essere un'idea, sì, no, potrebbe essere un'idea, una cosa graziosa, non ci avevo pensato. Grazie del... Se no, se mette un clacson politonale, come quelli che andavano in moda ai tempi del sorpasso, è la suona per il mondo e la prova con il clacson. Non può essere un'idea. Potrebbe essere un'idea, insomma. Va bene, Elia, grazie. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccolo. Mi sente? Certo. Buongiorno. Allora, io da quando ho 18 anni sono, diciamo, ho sempre avuto la macchina e la macchina mi ha sempre dato una sensazione di libertà, di autonomia, e oggi che ne ho 62 passo... da 3 a 4 ore in macchina, perché faccio il commerciante e quindi me ne servo per lavoro, però è rimasto un po' il mio guscio, la mia astronave personale dove... L'astronave personale mi piace, perché l'astronave nel senso che si supera la barriera del suono come nei film e i telefilm, sì, dedicati allo, sì, spazio, perché... si va nell'iperspazio. Ecco, il suo iperspazio dove la porta? Mi porta nei luoghi, a parte quando me ne servo nel lavoro, ma quando me ne servo per il piacere, mi porta nei luoghi dei miei sogni, mi porta in montagna. Lei di dov'è? Lì dov'è, Massimo? sono umbro di Foligno. E quindi va a Patollo con la macchina? No, con la macchina vado in montagna, vado nei posti belli di domenica con la famiglia, con i miei figli o anche senza. Però ecco, rimane questo rapporto. Si ricorda quando eravamo giovani, visto che più o meno alla mia stessa età, che uscivamo con le famiglie con l'automobile la domenica per fare i cosiddetti picnic anni 60, una cosa tristissima. C'erano le macchine che avevano il sedile davanti a divanetto, che si smontava e si metteva lungo la strada e si sedeva la famiglia sul divano. Come l'R4. L'R4. Si ricorda, si smontava il divanetto. Io infatti sono stato un fortunato proprietario di R4. Si smontava il sedile davanti e diventava un divano, dà ancora più l'idea in realtà della casa semovente, dell'habitat familiare spostato all'interno di un'automobile. Io tutt'oggi, anche quando ho la fortuna di avere 2 minuti di tempo, 20 minuti di tempo per fare un sonnellino dopo pranzo, lo faccio in macchina. Dove? Nel garage di casa? No, fuori. Nel cortile? Fuori casa. Sì, nel cortile del posto del lavoro, nel parcheggio. Ma è bello, è molto da umarello questa cosa qua, di andare a fare il sonnellino in macchina. Perché d'inverno soprattutto, se la parcheggia al sole, è bella caldina, quindi da gusto. Ho ancora questo rapporto, diciamo, che è una mia estensione la macchina, non è? Tant'è vero che quando c'è qualcosa che non va nella macchina è un pensiero insistente. Lo so, è come una fitta al cuore che non si sana finché il meccanico non ci dice bene, è tutto a posto, vada tranquillo. Ci fermiamo un istante, 800 24 00 24, tranquilli, oggi parliamo molto bene di tutte le automobili del mondo. Melog, cronache meridiane. Mi chiamo Nathaniel, ho 27 anni e sono fidanzato con la mia auto. Ciao tesoro. Sei bellissima. Nathaniel è fidanzato con un'auto che ha chiamato Chase. L'ha vista per la prima volta da un rivenditore 5 anni fa. Ti amo. È stato amore a prima vista. La carrozzeria, gli interni. Ho sentito subito un'attrazione istantanea per ogni sua parte. 800 24 00 24. Non c'è materia particolata che tenga, che sarebbe il PM10, che possa fermare il nostro amore per l'automobile. Dentro l'automobile sentiamo protetti da tutto, protetti anche dalle polveri sottili. Perché volete impedirci questo piacere immenso? Perché non seguire la strada indicata fulgida dal nostro ascoltatore che fa il pisolino dentro l'automobile? Perché fare il pisolino sulla scrivania d'ufficio, farlo nel divano di casa, con la famiglia che ti urla dietro, chiede attenzione? Pensate, bello, parcheggiare, adesso che è inverno, un po' al sole, con un bel panorama, con qualcosa che si vede, solite di meglio anche sotto un albero, in un giardino, vicino a un giardino pubblico, abbassate un po' il sedile e dormite. Mettete la musica o mettete Radio 24, vi lasciate prendere dall'aroma dell'arbre magique, vai, portate qualcosa da mangiare. Guardate che l'automobile è un sostituto dell'abitazione perfetto, meraviglioso, non ci potevamo inventare di meglio. E ci muoviamo, c'è questo senso di continua transumanza verso pascoli che non arrivano mai, ma sono sempre migliori rispetto a quelli che ci lasciamo alle spalle. Cristina, buongiorno. Buongiorno. Mi avete appena ricordato una cosa diversa da quello che volevo dire. Di mio padre che non c'è più. Abbassi la radio però, Cristina. Sì, e in queste giornate qua si metteva appunto sull'auto a pensare, si rilassava, lui la macchina si scaldava, diceva, il calore dell'auto al sole. Avete fatto vedere in mente questo. E niente, gli avevo sì, perché accade in campagna, nelle province, si parcheggia al sole, si mette dentro e si pensa, sta tranquilli. Quando uno c'ha una casa rumorosa, c'ha una famiglia tediosa, o c'ha dei problemi, o vuole starsene da solo. Dove sta da solo una persona? È impossibile oggi stare da soli. Si chiude in macchina, sta da solo. E non c'è questo vantaggio. Me, sì. Perché non lo dica? Lei sta molto sola in macchina? Tantissimo, non solo in macchina, sto da solo comunque. Ma vabbè, la macchina nella vita qualcosa... sono fatti suoi, oggi vogliamo sapere in macchina. Sì, nella macchina si sta benissimo, sto benissimo. Appunto questa mattina ho fatto questo piccolo viaggetto di mezz'ora. Alle 8:15 circa avevo il sole dietro, una palla gigante arancione che illuminava le case davanti del paesino prossimo, era una cosa bellissima. Magari su un cavalcavia quando scendi, è una cosa bellissima per me l'auto. Ci tengo tantissimo, mi piace averla pulita, in ordine. Quando non è in ordine la cosa mi disturba. Ecco, mi dà qualche piccolo segnale di differenza rispetto a un'automobile gestita da una donna? Qual è l'attenzione che mette in più lei nell'automobile rispetto... Insomma, la mia automobile che dentro ho l'etamaio, devo dire onestamente, ma perché così non ci faccio caso, piena di bottigliette vuote, fazzolettini usati, poggiapiedi pieni di terriccio, c'è di tutto. Ogni tanto la porto a lavare, ma così, giusto perché mi fa pena a un certo punto, come vedere Lazzaro lì abbandonato e gli dai una mano, come... non so... La mia, forse, magari io, non... La mia è nera, ci tengo moltissimo che sia lucida anche fuori, il nero si sporca facilmente. La sua è lucida e nera, poi? Sì, e poi dentro deve essere sempre pulita, adesso non è moltissimo perché la mattina porto dei bambini, quindi i tappetini, la tengo, niente, l'odore di fumo non ci deve essere, non ci devono essere odori. Ma usa anche dei prodotti che lei manualmente usa per pulirla all'interno? Sì. Ad esempio? Pulisco il cruscotto dell'auto. Con cosa lo pulisce? Con una... questi appositi spray. Ah, lo pulisce lei a mano, non è che la porta a lavare, se la fa lei. No, a me piace tantissimo, vivo in campagna e posso pulirla e mi piace anche tantissimo pulirla. Ma lei fa mai come gli Umarell che si ferma la domenica alle fontanelle pubbliche e pian piano con un bicchiere d'acqua la pulisce tutta, passandoci no, ore? No, no, no, queste cose qua, anzi, mi capita di andare negli autolavaggi dove ci si lava la macchina da soli, no? Beh, cioè, sennò che gusto c'è. Deve aspirare, così preferisco farlo a casa mia, non mi piace farlo. Ma come fa? Lei diciamo, ha una presa di corrente agibile vicino a un garage, perché sennò come fa attaccare l'aspirapolvere? Sì, nel mio cortile. Ah, lei ha un cortile? Beh, lei è fortunata. Sì. Che abita al sesto piano di un palazzo, che fa? Mica può... Almeno ci sono degli aspirapolvere a batteria. Tiziano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletti. Buongiorno. Niente, io ho passato una vita sulla macchina, 40 anni di rappresentanza. Allora, facciamo un conto, 40 anni di vita, quanti ne ha passati? 8 ore al giorno. Quindi 20 di sicuro l'ha fatti dentro l'automobile, di 40. Più o meno, insomma. Quindi ha passato 20 anni seduto in un'automobile. Esatto, sì, è la mia appendice. L'automobile. Beh, lei, se sentissimo il punto di vista dell'automobile, direbbe: lui è la mia appendice, è il mio saprofita all'interno. E ne ho distrutte parecchie, tra l'altro. Perché le ha massacrate? Nel senso che le... Massacrate come chilometraggio, ovviamente. Ah, lei, chilometraggio. E poi, avendo un piedino abbastanza pesante, la macchina da me passava direttamente a rotamaio. Senta, lei mi ha consumato amori all'interno dell'automobile? Diciamolo in termini dicibili. Certo. Succede? Sì, ovvio. Succede. Ho mangiato, ho dormito, ne ho fatte di tutti i colori in macchina. Sono andato in Norvegia da solo in macchina. Anche perché mi piaceva guidare. Ha dormito in Norvegia dentro la macchina, no, penso? Sì, anche. Sì. Anche, va bene. Notte... per strada ha sfidato i rigori del clima nordico dormendo in macchina. No, beh, era agosto. Agosto, vabbè, allora non ha sfidato niente, però è andato in Norvegia in macchina. Anna, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io sono una donna che viaggia molto per lavoro. Però adesso è caduta la linea. Mi sente? Sì, ecco, la sento, non era lei. Sì. Eccoci. No, niente, dicevo, quindi ho la fortuna anch'io di usare molto la macchina per lavoro e questo mi rilassa. Quindi un modo di girare, insomma, tantissime... Lei dice sono felice posti. Quando vado in macchina, vedo. Io sì, prima di tutto perché esco da Roma, quindi lascio la città alle mie spalle e mi dirigo in altri posti, ho modo a volte di fermarmi, come non a pensare perché magari il tempo non lo consente, però di fermarmi a fare qualche foto, di assaporare anche qualche cosina che ho comprato al volo, magari, no? Qualche pizza caratteristica, magari mentre guido. Ma scusi, io non lo farei mai. Granocchio sì, qualcosa. Ma si riempie di briciole e rischia di ungere i sedili. Non fa niente, no, no, come no. Non no. Fa niente? La mia macchina non è di quelle particolarmente. Quindi pulite. È una macchina zozza. Ci vivo, sì, abbastanza. Anch'io la lavo ogni tanto per pietà, perché mi fa pena. Comunque sì, è molto rilassante. è molto differente è quando sono poi in città e parlo di Roma, insomma, conosciamo il rapporto bene con l'automobile. Quindi diciamo è il trasportatore verso una dimensione, non è quella del quotidiano, non è quella della grande città, serve per uscire fuori, per non pensare. Poi vedo che la costante di tutte le persone che ci hanno chiamato è: la macchina è il luogo in cui evaporano i pensieri quotidiani, possono evaporare o vengono elaborati comunque i pensieri più pesanti. Quindi diciamo è questa sorta di cella che ci isola dalla realtà quotidiana. Alessandra, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io chiamo da Torino e faccio la rappresentante. Quindi cosa vende? Cosa vende? Vengo prodotti per la casa, articoli da regalo, sono in questo settore e ho il Piemonte e la Valle d'Aosta, quindi sono... Ma il campionario se lo porta in macchina, se lo porta? Qualcosa, adesso molto meno, adesso siamo più tecnologici, iPad, computer... Ah, con un tablet fa vedere tutto, quindi non avendo... Esatto, una volta invece addirittura viaggiavo con il trolley, con dentro i vari... I campioncini. I campioni, esatto, sì. E quindi la macchina è una parte di me, con sopra tutto quello che mi può servire in una giornata. In che senso una seconda casa? Una seconda casa? Quindi c'ha il cambio, c'ha l'outfit di riserva, le scarpe comode? Anche. Magari metto i tacchi e poi cambio le scarpe. Ecco, immagino che lei dovendo avere anche, diciamo, un aspetto esteriore... in qualche maniera di livello, le scarpe col tacco le terrà accanto, avrà le pianelle da guida. Esattamente. Poi c'è sempre qualcosa da mangiare, la bottiglietta d'acqua, poi c'è magari anche il cambio però dietro per i figli, perché poi il pomeriggio ci si occupa dei figli e quindi il cambio per i ragazzi e tutto quanto. Quindi le porto la mia modesta esperienza. Dietro c'è la sacca del cavallo di mio figlio, quindi immagini l'odore di stalla di cavallo che è la costante nella mia macchina, perché sta tutto il tempo dietro. Stivali che hanno pestato lo strame non so di quante stalle, pantaloni pieni di pelo di cavallo e tutti accessori che sanno di cavallo. È una macchina alla Frore Cavallino, però evidentemente la sua sarà molto migliore. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, io dunque volevo portare il contributo. La macchina per me serve da sala di prova di canto, cioè in macchina puoi cantare, puoi fare tutti i vocalizzi che vuoi, non disturbi nessuno e provi anche tonalità che di solito non riesci a fare. Io sono un volontario, canto nella casa di riposo, nella scuola elementare, eccetera, con la chitarra. No, mi faccia capire, lei riesce a raggiungere alcune note dentro l'automobile e non fuori? Sì. Ad esempio, mi faccia un esempio. Non lo so, potrei cantare Mamma, quando canto Mamma provo magari dei toni più alti Come viene in automobile? Adesso è in automobile lei? Sì. Faccia sentire com'è la versione automobilistica di Mamma. Beh, Mamma son tanto felice. Mamma son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che tu sei tutto per me. Mamma son tanto felice stare lontano perché Mamma solo per te la mia canzone vola e via. Pensi che la sta guardando adesso e canta Mamma in automobile e la sente in diretta. Comunque era scattato l'antifurto, ho sentito una sirena prima quando ha iniziato. La frequenza troppo acuta per far saltare l'antifurto. No, come mai? Vabbè, come mai le riesce a intonare questa nota solo dentro l'automobile? Se l'hai mai chiesto? No, riesco a provarle con toni più alti, con toni che mi permettono... Provo a estendere al massimo la voce. Perché non teme il giudizio di chi l'ascolta? Si può fare. Perfetto, interessante però. È utile avere questa sorta di bolla isolante dal mondo. Assolutamente. La gente ti guarda, però fa niente. Poi capisce che si sta cantando. Beh, oramai tutti parlano in macchina perché tutti telefonano, quindi il soliloquio ormai non dà più nell'occhio. Francesco, solo Francesco, veloce. Buongiorno. Sì. Allora, niente, io faccio anch'io il commerciale, quindi parto in genere il lunedì mattina e ritorno il venerdì. Sono in macchina in giro per l'Italia. Sono partito ieri mattina da Taranto, sono andato a Roma ieri a pranzo, ieri sera a Grosseto e ora sto andando verso Torino, Milano. Vivo in macchina praticamente. Quindi lei è di quelle persone dal chilometraggio infinito, che oggi parte, non ha problemi quando sì, arriva. Faccio anche 4500 chilometri in una settimana. Perché... Quindi lei veramente vive più in macchina che a casa sua, questo è poco, sì. Ma sicuro. Radio 24 mi fa parecchia compagnia. Ma questo sì, ci fa piacere, infatti oggi so che mi sto rivolgendo al mio core business, come si suol dire, quindi figuriamoci, sono felice di questo. Perché in genere la musica anche in radio non è bellissima, quindi a questo punto è meglio ascoltare qualcuno che parla anziché... Sì, questo diciamo è statisticamente provato, che in realtà la radio di parola, o perlomeno si può articolare, seguire... E dare un orecchio attento anche a questioni che normalmente nella vita non ci appassionano. Quello che ti dice la radio in questo momento è anche una maniera di essere accompagnati. La musica è un sottofondo, l'ascolto alla radio è una forma di avere quasi un interlocutore. Poi, se come in questo caso potete anche telefonare e dire la vostra, realmente sì, è la prima volta. Spero che non sia l'ultima. A tra un istante, 800 24 00 24, raccontate la vostra seconda vita o prima vita dentro la vostra automobile. Melog, cronache meridiane. Sinceramente non so spiegare il perché dei miei sentimenti. So solo che amo Chase e che stiamo bene insieme. Le piace la musica che piace a me. La nostra canzone preferita è Can't Fight This Feeling dei Rayo Speedwagon. Le faccio dei regali. Chiunque comprerebbe qualcosa alla propria fidanzata. Per il suo compleanno organizzo sempre qualcosa di speciale. La giornata ideale è andare con lei a vedere il panorama, sedermi al suo fianco e stare con lei tutto il tempo. Ti amo. 800 24 00 24. Non l'ho mai fatto in 30 anni di radio, però lo faccio adesso perché fa troppo ridere. Mando un saluto alle ragazze del Bar Tabacchi a Portico di Caserta, scritto esattamente come lo leggo, rendezvous. Vabbè, eccomi ragazze. Manuela, buongiorno. Buongiorno, io volevo dire che ho amato Carol e amo Carolina. Sono le macchine che ho avuto. Ha una visione eclettica dell'amore, molto contemporanea la sua. Sì, io considero l'auto come l'amica, ecco, per una donna. Ma Carol chi è Carol? Carol è la mia ex auto. Ma perché, una maschio e una femmina? Ma Carol cos'era? No, Carol perché era un po' più grande di questa è un po' piccina. Questa l'ho chiamata Carolina. Ma le ha dato più soddisfazione Carol o Carolina? Carol. Carolina sta facendo i primi passi, vediamo. Qual era il momento più intenso che lei passava con Carol? Carol, diciamo che ha passato con me l'adolescenza, si può dire, no? Dalle diciamo un po' il primo amore, anni. Diciamo è stato il suo sì, maestro di il primo di, amore, abbiamo fatto tanti chilometri insieme, ho pianto quando non potevo piangere davanti a nessuno. Quindi Carol ha anche raccolto la sua disperazione e il suo pianto? Sì, giusto, i dolori, i gioie, quelli veri, sinceri, sì, la macchina uno può condividere. Pensi se potesse parlare Carol dal suo sfasciacarrozze lì dove l'ha seppellito e dire quello che le ha raccontato? Io a parte che l'ho pianto quando me l'hanno portata via perché ho dovuto venderla. Ancora la voce rotta dal pianto pensando a Carol? Sì. Era veramente un tesoro di macchina. Era instancabile, scommetto. Sì, anche come ha detto lei prima, il primo amore. E quindi si cerca di fare più chilometri, o magari quando anche capita qualcosa quanti, nella vita... Quanti chilometri avrà condiviso lei con Carol? Cioè quanti chilometri si è fatta diciamo, con Carol? Per essere una donna, 120 chilometri in 9 anni mi sa che cioè, sono 120 troppi, no? Mila. Sì, 120.000. Quindi lei è chilometrata 120.000 con Carol e con Carolina sta cominciando una nuova storia d'amore. Interessante. Giuseppe, buongiorno. Giuseppe Caduto, Danilo. Buongiorno. Salve. Allora, io volevo dire che intanto in macchina è scoppiato l'amore con Radio 24, grazie a Dio. Questo. E poi nulla, anch'io ho passato È stata ruffiana la macchina in questo senso. Sì, certo, certo. Allora, ecco, nulla, anch'io ho passato molto tempo in macchina, l'adoro, anche adesso sono venuto in cortile per parlare al telefono, quindi la uso anche per questo. Questa è una cosa nuova, però. Sì. Io pensavo che l'amore in macchina si consumasse soprattutto lungo la strada. In realtà sì. Si consuma anche in luoghi riposti, in luoghi romantici, nel cortile. Sì, anche, no, vabbè, adoro, intanto è bellissimo con un po' di sole, c'è una temperatura gradevole, adorabile in macchina, quindi è bello starci. E poi io la uso anche come luogo di pensiero, sono un grande pensatore, quindi rimango anche fermo nel parcheggio, appunto, tempo permettendo anche delle mezz'ore intere a pensare, quindi ecco, la uso anche per questo. Ma è vero, quando si aspetta qualcuno in macchina è meno pesante che aspettarlo per strada, o aspettarlo a casa, o aspettarlo in qualunque posto. Aspettare sì. In macchina non è, perché uno poi si organizza. Accende la radio, fa delle cose. Ecco, ma anche perché, appunto, per chi passa molto tempo in macchina, oltre al fatto che io, ecco, oltre a rimanere fermo in macchina, comunque faccio anche parecchi chilometri, ne faccio circa 100.000 all'anno, quindi più o meno passo delle ore in macchina. E comunque sì, anche perché in macchina poi ci si crea un proprio ambiente, ci si è comodi, ecco perché è meno pesante anche l'attesa, credo. Quello vorrei capire, però, lei lo considera un tempo perduto? Il tempo passato in macchina? No, io lo considero un tempo utilissimo. Ecco, ripeto, anche perché è bello, per me è bello stare in macchina fermo e pensare. E appunto, ecco, ma io rimango anche fuori a guardare dal balcone o alla finestra per mezz'ora. È proprio perché è un'attività che gradisco. Che cioè a guardare la macchina parcheggiata sotto? No, a guardare in generale fuori. Allora. Ecco, come rimanere in macchina appunto e passare del tempo a pensare. Bello, a me piace, volevo solo dire questo. Comunque, sono contento che ancora una volta abbiamo avuto un'intuizione che condividiamo con gli altri, questo ci fa piacere. Ho detto, oggi volevo le dichiarazioni d'amore per la propria automobile e mi arrivano vere e proprie dichiarazioni d'amore. Vengono raccontate delle storie d'amore. In realtà adulteri incruenti che non fanno male a nessuno, consumati con la propria automobile, non dentro la propria automobile, come maliziosi penserebbero, ma no, con la propria automobile. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, salve. Lei cosa fa in automobile? Io praticamente ho scoperto che l'automobile mi serve tanto per imparare l'inglese. Quando accompagnare figli a scuola, aspettarli fuori dalla palestra. Quindi mi serve come metto un bel CD in inglese, mi faccio la mia bella oretta d'inglese e ne approfitto. È interessante, invece che molta gente perde tempo a imparare l'italiano, lei impara l'inglese giustamente in macchina, è molto utile. Quindi lei parla ad altra voce, risponde, articola le frasi. Sì, quello sì, infatti molti miei amici alle volte mi vedono, mi dicono ma che stai combinando? Niente. Non lo dice, è il suo segreto. Elisa, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo fare la mia dichiarazione d'amore per la mia 500 che ho avuto dal 68 al 73-74. E poi la rottamata. Ero una delle prime donne che insomma, ha avuto la macchina. Nel 68 una delle prime donne, scusi, ma dove? A Bari. Ah, a Bari, sì, prima del 68 Bari. C'erano pochissime donne che guidavano. Beh, insomma, proprio veramente... No, la macchina ho preso nel 66, quindi proprio... 66? Diciamo, sì. Ma perché veniva additata quella donna guida, come dire, una donna che fuma per strada? No, non volevo dire questo, volevo dire che poi per lavoro sono stata trasferita a Napoli, quindi ho vissuto 5 anni a Napoli con questa macchina che è stata la mia compagna di vita. Andavo dappertutto, così ero malpitana, in aprile ero già bronzatissima perché apriva il tetti, la cappottina della 500 naturalmente. Sì, la 500. Quindi apriva sopra il tetto, diciamo, l'apriva, era apribile. Prego? Aveva la cappottina sopra oppure aveva il tetto. Aveva la cappottina. E quindi si prendeva il sole, la 500 si apriva, sì, c'era la cappottina che si apriva e si chiudeva. Per dire, proprio mi ha fatto, come ha detto prima una signora, mi dava il senso di libertà. Di autonomia e di emancipazione soprattutto. Ma infatti nei paesi integralisti, quindi, quando leggiamo che esiste un rapporto subordinato e schiavizzato alle donne, le donne non possono guidare, non possono andare. Eravamo un po' quei tempi erano un po' così. Voglio dire che mi ha dato moltissimo. Ma si è mai sentita diciamo le voci dietro la schiena che guidava la macchina, quella guida la macchina. Ah sì. Era quasi una donna perduta per cui dava la macchina. Sì, ma infatti poi si immagina a Napoli, allora, una donna che viveva da sola, e io quasi non dicevo che vivevo da sola perché, insomma, senti, non mi liberavo più dalla gente. Ah, perché c'era il codazzo dopo, da sola, con la macchina, automunita, era una cosa terribile. Era una preda sicura. Marina, sentiamo Marina. Marina, salve, buongiorno. Dottor Nicoletti, buongiorno, velocissima, perché siamo in chiusura, vero? Sì, certo. E ho il mio nome da 12 anni, è un fuoristrada. E il peggiore che c'è, mia sorella lo chiama la diligenza, perché è duro come un accidente. Ma beh, l'uomo ideale per averlo vicino. Lui mi ha portato in Grecia. È il compagno ideale, diciamo. Lui, il mio defender, mi ha portato in Grecia. E il mio amore. È il suo amore? Sì, e dire che prima guidavo macchine che facevano più dei 200. Però adesso lui... L'ha scelto bello rude e bello disposto a portarlo ovunque e soprattutto durissimo. Grazie, ci sentiamo alla prossima.